Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Tony Servillo legge Il giorno della civetta, di Leonardo Sciascia. Oh, eccellenza, disse Sua Eccellenza sgusciando dal letto con un balzo, per la sua età e per il suo decoro imprevedibile. Nel sonno lo squillo del telefono aveva raggiunto con moleste ondate la sua mente. Aveva afferrato l'apparecchio con la sensazione che la mano, nel gesto, fosse incommensurabilmente lontana dal suo corpo. E mentre al suo orecchio giungevano lontane vibrazioni e voci, aveva acceso la luce, così irrimediabilmente svegliando la signora, che certo non avrebbe più raccolto per quella notte il sonno che sempre avaramente scendeva nel suo corpo inquieto. Di colpo le lontane vibrazioni e voci si dissolsero in una voce anch'essa lontana, ma irritata e inflessibile, e Sua Eccellenza si trovò fuori del letto in pigiama, scalzo, ad inchinarsi e a sorridere come se inchini e sorrisi avessero potuto colare dentro il microfono. La signora lo guardò disgustata e, prima di voltargli le spalle, nude, splendide spalle, disse mormorando: «Non ti vede, puoi fare a meno di scodinzolare». E davvero Sua Eccellenza in quel momento mancava soltanto della coda per esprimere devozione. Disse ancora: «Oh, Eccellenza!» E poi: «Ma Eccellenza! No, Eccellenza!» «Sì, Eccellenza, va bene, Eccellenza». E dopo aver detto un centinaio di volte «Eccellenza», quando la voce irritata gli si spense all'orecchio, restò col telefono in mano a mormorare apprezzamenti sulla madre dell'Eccellenza, che da Roma alle 2 del mattino veniva a mettere scompiglio nella sua esistenza, guardò la signora che ancora gli voltava le spalle, già abbastanza scompigliata. Posò il telefono sulla forcella, lo staccò di nuovo, fece un numero. La signora si voltò come una gatta. «Domani», disse, «io dormirò nella camera degli ospiti». «Mi dispiace, amico mio, ma io sono stato svegliato proprio ora», disse con voce irritata e inflessibile come quella che pochi minuti prima risuonava al suo orecchio. «E dunque facciamo la catena di Sant'Antonio. Sveglio io, sveglio voi, e voi mi farete il santo piacere di svegliare chi dovete svegliare. Ho avuto ora una telefonata da Roma, non vi dico da chi, voi capite. Quel Bellotti, io già lo avevo previsto, ricordate? Ha fatto nascere uno scandalo di proporzioni nazionali. Nazionali, vi dico. Uno di quegli scandali che quando uno come me o come voi ci si trova involontariamente in mezzo sono guai neri, amico mio, nerissimi. Sapete che cosa c'era stasera su un giornale romano? Ah, non lo sapete? Beato voi, che a me è toccato sentirlo dall'interessato che vi assicuro era ingazzato da fare spavento. C'era la fotografia ingrandita a mezza pagina di... voi capite chi? Al lato di Don Mariano Arena, cosa dell'altro mondo. Un fotomontaggio, ma che fotomontaggio? Fotografia autentica. Ah, ma bene, non ve ne importa niente. Siete originale davvero. Lo so benissimo anch'io che noi non abbiamo colpa se Sua Eccellenza ha avuto l'ingenuità, diciamo così, di farsi fotografare insieme a Don Mariano. Sì, vi ascolto, vi ascolto. La signora esplose dal letto nuda e bellissima. Usava, come un'attrice famosa, andare a letto vestita di Chanel numero 5, il che serviva a svegliare i sensi di Sua Eccellenza e ad assopirne quel burocratico ingegno che nei giorni della Repubblica di Salò aveva dato il meglio di sé. Avvolgendosi in un copriletto di piume e in un nimbo di sdegno, la signora uscì, seguita dallo sguardo ansioso di Sua Eccellenza. «Benissimo!» proseguì Sua Eccellenza dopo aver ascoltato per un paio di minuti. «Facciamo così. O entro stanotte mi inchiodate questo Don Mariano Arena con prove che nemmeno il Padre Eterno potrà smontare, o entro stanotte lo buttate fuori e ai giornalisti si dirà che è stato trattenuto per degli alimenti. Il procuratore della Repubblica segue le indagini ed è d'accordo con Bellotti». «Che imbroglio, che guaio. Fate qualcosa, insomma». Sì, mi rendo conto. Ma sapete che cosa mi ha detto Aurora? Voi capite chi? Sapete che cosa mi ha detto? Che Don Mariano Arena è un galantuomo, e che qualcuno qui tra me e voi sta facendo il gioco dei comunisti? Ma com'è piovuto qui, questo Bellotti? Come diavolo mandano uno come lui in una zona come questa? Qui ci vuole discrezione, amico mio. Naso, tranquillità di mente, calma. Questo ci vuole, mandano uno che ha il fuoco di Farfarello. Ma non lo metto in dubbio, per carità. Io l'arma la rispetto, la venero. Fate come volete, insomma. Sì, fate come volete. E calò il telefono sulla forcella come una martellata. Ora aveva il problema di acquietare la signora, di così ardua soluzione da superare quelli già terribilmente difficili del suo ufficio. La luce dell'alba intrideva la campagna, pareva sorgere dal verde tenue dei seminati, dalle rocce e dagli alberi madidi, e impercettibilmente salire verso il cielo cieco. Il chiarchiaro di gramoli, incongruo ed assurdo nella pianura verdeggiante, pareva un'enorme spugna, nera di buchi, che veniva inzuppandosi della luce che sulla campagna cresceva. Il capitano Bellodi, che era arrivato a quel limite in cui stanchezza e sonno si fanno lucida febbre, come se da sé si consumassero per dar luogo ad un ardente specchio di immagini, e così è della fame, che a un certo punto, ad una certa intensità, si assottiglia in lucida inedia che respinge la visione del cibo. Il capitano pensava: Dio qui ha gettato la spugna, in analogia alla visione del chiarchiaro ponendo la lotta e la sconfitta di Dio nel cuore umano. Un po' scherzando, e perché sapeva il capitano curioso di certe espressioni popolari, il brigadiere disse: E lu cuccu ci dissi a li cuccuotti, a lu chiarchiaro nividiemmo tutti. E subito incuriosito, il capitano gli chiese il significato. Il brigadiere tradusse: Ed il cucco disse ai propri figli, al chiarchiaro ci incontreremo tutti. E aggiunse che forse voleva dire ci incontreremo tutti nella morte. L'immagine del chiarchiaro, chissà perché, diventata idea della morte. Il capitano capiva benissimo perché, e febbrilmente ebbe visione di un fitto raduno di uccelli notturni nel chiarchiaro, un cieco sbattere di voli nell'opaca luce dell'ora, e gli pareva che il senso della morte non si potesse dare in immagine più di questa paurosa. Avevano lasciato l'automobile sulla strada ed ora si avvicinavano al chiarchiaro per un viottolo stretto e fangoso. Sul chiarchiaro si vedevano i carabinieri muoversi e forse c'era anche qualche contadino che aiutava. Ad un certo punto il viottolo finiva in una masseria e bisognava attraversare i campi seminati per giungere dove il maresciallo di S, ora lo si distingueva benissimo, stava gesticolante a dirigere la ricerca. Quando furono a un tiro di voce, il maresciallo gridò: «Signor capitano, c'è! Sarà un po' difficile tirarlo su, ma c'è!» con un'esultanza spropositata al ritrovamento di un cadavere. Ma questo è il mestiere, e il rinvenimento di un morto ammazzato segnava in quel caso soddisfazione e trionfo. C'era, in fondo a un crepaccio di 9 metri, già misurato da una corda a cui era stata legata perché scendesse a piombo una pietra. La luce delle torce elettriche, intrigata dai cespugli che venivano fuori dalle pareti del crepaccio, batteva appena sul fondo, ma veniva su, inequivocabile, il sentore del disfacimento. Un contadino si era offerto con grande sollievo dei carabinieri, che temevano dovesse toccare a uno di loro, di scendere giù legato a una corda e di attaccare il cadavere a diversi capi di corda, in modo che lo tirassero su con relativa facilità. Ci volevano molte corde e le aspettavano dal paese, dove un carabiniere era andato a prenderle. Il capitano tornò, attraverso i seminati, alla masseria da dove cominciava il viottolo. Pareva abbandonata, ma girando intorno dal lato opposto a quello che guardava verso il chiarchiaro, un cane improvvisamente scattò nel raggio che la corda che lo legava ad un albero gli consentiva. Restò come sospeso al collare che lo soffocava, rabbiosamente abbaiando. Era un bel bastardo, di pelo marrone e con piccole mezzelune viola sugli occhi gialli. Un vecchio venne fuori dalla stalla ad acquietarlo. «Tiè, barrucezzo, tiè, buono, sta buono. Poi al capitano disse: «Bacio le mani». Il capitano si avvicinò al cane per accarezzarlo. «No», disse il vecchio allarmato, «è cattivo. Una persona che non conosce, magari prima si fa toccare, la fa assicurare, poi morte. È cattivo quanto un diavolo». «E come si chiama?» domandò il capitano, incuriosito dallo strano nome che il vecchio aveva pronunciato per acquietarlo. «Barruggietto si chiama», disse il vecchio. «E che vuol dire?» domandò il capitano. «Vuol dire uno che è cattivo», disse il vecchio. «Mai sentito», disse il brigadiere. E in dialetto chiese altre spiegazioni al vecchio. Il vecchio disse che forse il nome giusto era Barricieddu, o forse Bargieddu, ma in ogni caso significava malvagità, la malvagità di uno che comanda, che un tempo i Barruggieddi o Bargieddi comandavano i paesi e mandavano gente alla forca per piacere malvagio. «Ho capito», disse il capitano. «Vuol dire Bargello, il capo degli sbirri». Imbarazzato, il vecchio non disse né sì né no. Il capitano avrebbe voluto chiedere al vecchio se avesse notato qualcuno giorni prima dirigersi verso il Chiarchiaro o se comunque avesse visto qualcosa di sospetto da quella parte. Ma capì che non c'era niente da cavare da uno che riteneva il capo degli sbirri cattivo quanto il proprio cane. E non è che avesse torto, pensava il capitano. Da secoli i Bargelli mordevano gli uomini come lui. Magari li facevano assicurare, come diceva il vecchio, e poi mordevano. Che cosa erano stati i Bargelli, se non strumenti della usurpazione e dell'arbitrio? Salutò il vecchio e per il viottolo si avviò allo stradale. Strattando la corda che lo legava, il cane abbaiò un'ultima minaccia. «Bargello», pensò il capitano, «bargello come me. Anch'io col mio breve raggio di corda, col mio collare, col mio furore». E più si sentiva vicino al cane di nome Barruggieddu che all'antico, ma non tanto antico, Bargello. E ancora pensò di sé cane della legge, e poi pensò cani del Signore, che erano i domenicani, e Inquisizione, parola che scese come in una vuota oscura cripta, cupamente svegliando gli echi della fantasia e della storia. E con pena si chiese se non avesse già valicato, fanatico cane della legge, la soglia di quella cripta. Pensieri, pensieri che sorgevano e si dissolvevano nella vampa in cui il sonno da sé si consumava. Il capitano tornò a C e prima di andare al suo alloggio per un breve riposo passò dall'ufficio del procuratore della Repubblica per riferire sul corso delle indagini e per ottenere proroga al fermo dell'Arena, che si proponeva di interrogare nel pomeriggio dopo aver radunato e vagliato tutti gli elementi raggiunti. I giornalisti bivaccavano per le scale e i corridoi del Palazzo di Giustizia. Gli furono addosso come uno sciame, negli occhi dolorosamente aridi gli esplosero i lampi dei fotografi. «A che punto sono le indagini? Don Mariano Arena è il mandante degli omicidi? O c'è qualcuno più potente dietro Don Mariano? Marchica e Pizzuco hanno confessato? Sarà prorogato il fermo o ci sono già i mandati di arresto? Lei sa dei rapporti tra Don Mariano e il ministro Mancuso? È vero che l'onorevole Livigni è venuto ieri nel suo ufficio?» «Non è vero», rispose a quest'ultima domanda. «Ma ci sono state interferenze di uomini politici a favore di Don Mariano? È vero che il ministro Mancuso ha telefonato da Roma?» «Per quanto mi risulta», disse a voce alta, «nessuna interferenza politica c'è stata né ci può essere. In quanto ai rapporti tra uno dei fermati e certi uomini politici, io conosco soltanto quello che voi scrivete. Ma ammesso che tali rapporti esistano, poiché non voglio qui dubitare della vostra onestà professionale, non è mia preoccupazione finora considerarli o indagarne la portata. Qualora tali rapporti nel corso delle indagini assumano una particolare configurazione tale da richiamare l'attenzione della legge, è certo che né il procuratore della Repubblica né io verremo meno al nostro dovere». In un titolo a 6 colonne di un giornale della sera, questa dichiarazione veniva così presentata: «L'inchiesta del capitano Bellodi raggiungerebbe anche il ministro Mancuso». I giornali della sera escono, si sa, prima di mezzogiorno. E in quella che nel sud è l'ora del pranzo, le linee telefoniche bruciarono come miccia delle grida dei colpiti,